ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto Mondo. Sir, you're the epicenter of a global pandemic, and you can't even admit that? That's actually a false assessment entirely. I don't even know what you mean by epicenter. Eccoci qua con Giulia Crivelli che si sta mettendo la cuffia perché all'ultimo secondo, mentre ascoltavamo questo audio... Però tu mi senti. Io ti sento, okay. Sì, è andato via l'audio. Meno della cuffia male di che Giulia. Siamo in studio. Vabbè, siamo in studio, questo è già un recupero di normalità, piccolo. Era il signor Anthony Palladini, sì. Come potete capire dal cognome, insomma, di origine italiana, ma di terza generazione americana ormai, abita in Florida, è un deputato della Florida... E rispondeva a un incalzante, molto incalzante giornalista della CNN che diceva: la Florida, terzo stato più popoloso degli Stati Uniti, 20,5 milioni di abitanti, in questo momento in grandissima emergenza, e che cosa risponde al fatto che non volete rendere la mascherina obbligatoria? E questo signore rispondeva: non è vero, non siamo in emergenza, abbiamo fatto tantissimi tamponi, il tema è non solo quello... Come mi ricordavi tu, Alessio, che bisogna vedere la proporzione rispetto ai positivi, come ci ha detto tante volte il professor Crisanti, è anche che dal momento in cui si fa il tampone al momento in cui ci sono i risultati passano troppi giorni. Mm. E non c'è l'obbligo, esattamente come non c'è l'obbligo di portare la mascherina, non c'è l'obbligo di aspettare in quarantena il risultato del tampone. E quindi sulle questo prime rischia pagine... di far dilagare tutto, è chiaro. Esatto, sulle prime pagine dei quotidiani americani non si parla che di Covid, sembra di essere in Europa. Due mesi fa o in Italia, dove avevamo le prime pagine con titoli solo sulla pandemia. Quindi il New York Times parla di nuovo dell'emergenza economica, ma anche del fatto che c'è questo nuovo scontro tra il consigliere economico, appunto, di Trump, Peter Navarro, che ieri in un op-ed, cioè in un contributo a USA Today, che è il terzo quotidiano più letto d'America dopo Washington, è l'unico a diffusione nazionale insieme a Wall Street Journal e New York Times e in parte Washington Post, ha detto che Fauci ha sbagliato troppe volte, non è più affidabile. Il Washington Post stesso torna su questo, ma anche sul fatto che ci sono alcuni stati, tra questi non la Florida, che stanno rendendo obbligatoria la mascherina anche all'aperto. Il Boston Globe torna sul tema dei test, che è vero, come dicevamo, ne sono fatti tanti, ma bisogna vedere con che velocità poi arrivano i risultati. E prima di sentire le parole di Fauci, perché questo scontro con Peter Navarro è anche sulla prima pagina del Boston Globe, dal Boston Globe segnalo questa curiosità: oltre ai Washington Redskins, che sono la squadra di football della capitale, che ha deciso che non si chiamerà più Washington Redskins, cioè pelle rossa, per rispetto agli indiani americani, ci sono 37 scuole secondarie dello stato del Massachusetts che stanno pensando di togliere proprio qualsiasi riferimento o disegno o riferimento diciamo di nome dai loro simboli, dai loro loghi e appunto dai loro nomi agli indiani americani, per evitare appunto una qualsiasi discriminazione o trattamento ritenuto in questi tempi ormai fuori dal tempo degli indiani americani. Anche solo per evitare che la targa della scuola venga tirata giù a sassate, perché imbrattata, perché questo è già capitato. Poi da riflettere se questo in realtà non sia poi una perdita in qualche modo anche di una memoria, no? Certo, ma questo, perché poi anche all'interno degli Stati Uniti ci sono molte organizzazioni, anche di indiani americani, che vogliono che appunto tutti questi nomi, pelle rossa, Redskins, vengano tolti, ma ci sono anche alcuni rappresentanti delle comunità di indiani americani che dicono: non è questo che cambia la situazione o che dà dei diritti in più. E insomma, ma si vedrà. Tu volevi ascoltare un'altra sì, voce? Fauci, il nostro amico Fauci, perché ieri è intervenuto e devo dire, ancora una volta si dimostra un uomo con un sangue freddo incredibile, però questa volta ha sbroccato un pochino. Nel senso che ha veramente, è diventato un po' meno serio del solito. Capita, ha usato tutto. L'ironia e questo eufemismo, ha definito bizzarro il comportamento di alcuni funzionari della Casa Bianca, ma sentiamolo. Sentiamo. I can't explain Peter Navarro. He's in a world by himself, so I don't even want to go there. Well, that is a bit bizarre, Ed, I have to tell you. I think if I sit here and just shrug my shoulders and say, well, you know, that's life in the fast lane. Piccolo Pino in translation. Sì, dice, innanzitutto di Peter Navarro, dice, vabbè, anche qua con uno sorrisino, credo che viva in un suo mondo, in una specie di universo parallelo dove il Covid è appunto un'influenzina, una gripesigna. Come direbbe Bolsonaro. Esatto. E nella seconda parte dice, d'accordo, potrei semplicemente prenderla dicendo, ho deciso di vivere nel fast lane, cioè nella corsia veloce, che è un modo di dire americano per dire, ho deciso di, insomma, di mettermi in gioco su questa grande battaglia, questa guerra al coronavirus, quindi dovrebbe andarmi bene tutto. Però a questo punto lasciatemi dire che commenti come quelli di Peter Navarro sono appunto bizzarri, bizarre, che è un punto, nel gergo di Fauci è, non voglio neanche commentarli perché sono appunto da persone che vivono fuori dal mondo. Qualcuno si occupa della sentenza che riguarda Apple e il regime fiscale presunto favorevole, ma in Irlanda bocciato ieri, non mi ricordo più da quale grado di giudizio. Sì, è l'apertura di Financial Times nell'edizione internazionale. Devo dire, su Wall Street Journal non è nemmeno in prima pagina, se ne dà conto, come se tutto sommato nella patria del liberismo in effetti comunque il fatto che Apple venga considerata non colpevole quando invece in effetti ha praticato queste elusioni fiscali, non evasioni ma elusioni sì, ma è l'apertura di Financial Times. L'Apple vince, emerge vittoriosa nella battaglia a livello di Unione Europea per questo accusa di aver sostanzialmente eluso tasse, ricordiamolo, per 14 miliardi di euro, che insomma è una cifra. Questo tema forse nell'Unione Europea è ancora attuale, perché sappiamo che noi non abbiamo regimi fiscali uniformi all'interno dell'Unione Europea, era soprattutto il Regno Unito che si era sempre opposto a questo ed è una questione sul tavolo, e sappiamo anche nella trattativa per il Recovery Fund perché i frugali, tra virgolette, dovrebbero spiegare in primis i Paesi Bassi perché esistono questi regimi fiscali agevolati, e non possiamo definirli paradisi fiscali, sarebbe troppo, però sicuramente il Regno Unito una volta, l'Irlanda una volta, questa è la vicenda Apple, e adesso i Paesi Bassi, dove guarda caso molte multinazionali hanno le loro sedi fiscali, dovranno confrontarsi con questo tema. L'Unione Europea deve arrivare a un regime fiscale comune. Non vorrei parlare solo di Covid, però un piccolo aggiornamento sul vaccino di Oxford che riguarda anche noi italiani, lo farei? Sì, il Times è molto ottimista e dice successo nelle primi trials di questi vaccini. È stato testato su 1000 volontari ed è talmente positivo il risultato che adesso si passa a una seconda fase. Negli Stati Uniti ci saranno due fasi su 10.000 volontari per volta del vaccino della Moderna, che è una American Biotech, e anche di un terzo vaccino che invece è una joint venture tra BioNTech, che è una società tedesca, e Pfizer, che è il colosso americano. Quindi in realtà sono molti di più i vaccini in fase di test o pretest, però per il Times e per il Regno Unito questa notizia è da primo piano, da prima pagina. Avrei voluto chiederti, ma possiamo farlo anche domani, i primi passi in Francia del nuovo primo ministro. È andato Castex, in Parlamento andato e ha fatto un discorso se non altro molto chiaro, ha messo sul tavolo altri 100 miliardi per il rilancio, ecco. E tutto all'insegna della transizione verde. Bene, grazie Giulia, appuntamento domani per quanto riguarda la puntata di oggi di Effetto Giorno con Filippo Aureggi in regia, Danilo Italia assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, ciao, buona giornata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.